Ciao. Ecco, ciao. Cos'è che vuoi vedere? Ciao, bella. Saluta. Da 5, ma. Ma che dopo le persone che va più bene. Ciao. Ciao, bambina. Di che riserva no? Così? Volevo bere in bianco. Sì. Fregata. No, ma sì, microfono. Bevo lo stesso. Tu. Sì. Ma ormai basta che la mia vita non serve. Che ordina? No, ma quello lì. Questa è la mia persona. Grazie la roba. Ciao. Ciao, tutta la carica mettete qui. Ma no, lì, è chi? Del tavolino? Eh? È chi che è del tavolino? Dai! Giro le spalle al tuo lato. E chi? Io il tavolo davanti. Ah, sto che no così. Mica sì, con limone e ghiaccio anche, anzi no, solo limone, limone. Ero lì che sotto la giacca, ma passo sempre dalle vie traverse. Prima senza giorno, secondo. E dopo ho messo mazzati il porto della giacca per entrare. A me me la tengo volentieri questa. Ma di che cosa devo fare? Tardi, magari. Dove si defina la mia vicina? E se ero lì sul terrazzo del mare, le e tira aria così no caldo e l'ombra esatto vestiti non so mai se è caldo se è freddo esatto mattina sì non lo sai perché per dire appena uscito dalla vasca appena dal bagnetto vera oh no vede vede qui sto si vedi tutti sorridi vedi anche lui cinque buongiorno. Salve. Ciao. Ciao ciao. Ben. Mi fa vedere cultura che fa, lo cane, coi avessi, non lo fa, esatto. Tanti agricoltori, che te lì, una puta rivale, una fumata. Comunque, quando stai, ieri, ieri era una grande scuola della loro memoria, la mia grazie. Grazie. Lega lì, bisogna vedere cosa ti chiedi, però poi ci stai giornati qua, ma è ancora tantissimo. E ha detto che la terza dose che la fa solo le persone fisicamente non a posto, cioè ovvio un po' non può mica essere sempre in un centro regionale ma come si fa a girare stamattina? E adesso ho sentito che sta pronte le anti-influenzali. Che dino! Ma se ne parla quella, ma io vado. E stanotte mi letto che non ho mai fatto. Cosa c'è? Sì, ti do io la nocciola, non vai sulla tappina, che lo sai che non devi andare. Brava. Brava. Cioccolata. Ehi. La spugna. Capisci la mia letto dell'età? No, ma lei lo sa che non la deve andare con le patte sulla tavola. Perché anche a casa, te lo spugna. Adesso quanti mesi? Sette. Anche me lo spaventi se fai così. Veloce, Topo. Anzi, camera, me la spaventi, è una femmina. Topo chiama. Wow, brava. Brava. Bravissima. Mamma mia. Ciao. Adatto, 5. Ciao. Ci sono della moglie. 2,50. Ciao, ciao! Alberto di metallo, quello c'è un di metallo che... Quando è che fai anni? Allora, a dicembre? Quel giorno? 17. Sì? Venerdì 17. Ah, sì? Ho detto fermo. Ehi. Attimo. Il registro ce la faccio. Cioè, oh, sì, in realtà questo c'è il smartphone. Sì, sì. Stiamo registrando dei suoni per la mole. Per raccogliere. Fare una devi riuscire a tra 20 anni. Le 7 e un quarto, con una cena con me fiola, un esempio e boccia. Aspetta, ride scherzi, no, questa non è vera. Zoologico. Lui è 30 anni cracchi. No, no, un mese di... un po' di esami, un po' di cose. No, però, no, no, Riccardo, tre camere. Due, sì, non so se c'è un'altra, in cui ti penso che stai a messa in tranquillità e anche che ti sta bene. Come fratelli, stai lì. Sì, dopo. Non ho mai visto un bambino che mi piace per la... Dai diritto a una shalom, gratis. Anche con i nostri vicini, no, la Virginia è contenta, le bambine del Massimo sono contente. C'è qua del Brione? Abito qui, c'è un po' di questo bar è l'unico, no? Non c'è un è Magnoli, quello là c'è un altro bar, comunque te ma telefona. Non già posso sedere così, c'era solo l'emma. C'è fuori per botte così. Un amico da Fulgaria, che è nato con suo papà. Vale! Perché ha 85 anni. A portarlo a fare il giro. Quando gli dai, portami su dei boschi. Siamo andati per fuori di Fulgaria. No, no, ha fatto un passo. C'è poi l'emma. Viene ahí dentro per i boschi. Nicola. Neanche con i matti. Ma è là. Sì. Sì. Qua, sì. Fai la pagata. Conviva là. Finisci il discorso. Sì, neanche con i matti li ha trovati. Sì, che... Sì, sì. Sì, sono cambiato. Ma dopo si è terminato? Ma quelli da 3 mesi. È bella, no? Sì. Niente. Cioè io ti devo aprire un po' di più gli occhi, sono questi qua non vogliono fare un cazzo, l'avvocato. Piuttosto di tagliare erba e alberi. Il conto è bella dare l'erba, là perché se... Qui non c'entro pure. Ma sì, dai che lo dico per scherzo. E l'alta? Rugiada? Sì? No, non vuoi più sapere. 9 ore? No, no, via lavoro. Ah. Falegname se qualcosa io chiedo sempre con Giletta. Ma non è che ti fai falegname? Perché che ti lavora? Perché dopo se fa le scelte. Ehi, fa il falegname perché dopo così le impara a farsi le scelte. Però la zampara. Il centralino. Che l'impetta? Racca. Avvocate, avvocate. Adesso. Non si diceva essere al ristorante, ma ho aperto la ditta 5 anni fa, no? Poi chiusa. Dovevo tenere tutti i registri. Io, no? Da parte, ma quelli per 10 anni che avevo. Io sono avuto caslochi da destra, mi hanno messo l'istruzione di materiale da destra, dai 3 anni ai 7 anni. L'istruzione di materiale. Dove ore. Perché sono soldi non. Se no non me ne sveglio neanche. Io sto vedendo come è meglio fare. Ma intanto ti sei costruito 6 anni. È roba per le marmi. Sì, magari. Dopo avanti 2 settimane per capire. Saluto. Saluto bene ragazzi. Ciao. Molto bene.